Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Vincenzo Nibali! La prima involata! La prima involata! Grazie, Nibali che vince in volata è gioia doppia! È gioia doppia! La radio mi dice uno di entrare davanti, però Michel aveva accelerato tantissimo e non riuscivo a passarlo. Allora l'unica era girarla più all'interno possibile e ce l'ho fatta. Complimenti perché hai regalato la prima vittoria all'Italia in questo Giro 100. Non ci pensavo veramente, no. Poi con Nairo mi sono complimentato anche con lui perché è un grande campione anche lui e abbiamo fatto veramente una bellissima tappa per lo spettacolo. Siamo andati di comune accordo e poi nella fase finale io ho spinto veramente tanto in discesa, ogni curva da rilanciare come se fosse sempre una volata. Poi era difficile fare anche la volata finale, l'ho girata all'interno un po' più stretta rispetto a Miguel e poi l'ho passato sulla linea proprio. Da qui partiamo, da quanto abbiamo visto ieri sulle neve eterne dello Stelvio, con Vincenzo Nibali che ha fatto lo squalo e finalmente il Vincenzo Nibali che mi aspettavo io fin dall'inizio del Giro d'Italia, nonostante il mio amico Pier Augusto Stagi fosse un po' scettico. Ciao Pier. Ero prudente, prudente. E comunque ieri puoi ricordare solo quello che io ti ho detto una settimana fa, devi ricordare quello che io ti ho detto ieri prima della tappa. Sì. E ieri ti ho detto attaccherà nel tratto finale dell'ultima salita e renderà sarà la pelle lungo la discesa. Così ha fatto Vincenzo, perché grazie al cielo parlo con lui. Tu sai perfettamente chi è stato uno dei più grandi discesisti italiani ogni epoca, no? Uno dei più grandi? Sì. Degli ultimi tempi? Sì. Paolo Savoldelli, sicuramente, il Falco. Eccolo qua. Un fuori classe assoluto. Eccolo qua, indovinato. Paolo Savoldelli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Se Stagi sbagliava la risposta lo mandavamo in castigo, No, è vero, potevo dirti Fiorenzo Magni se mi dicevi in senso assoluto. Degli ultimi 20-30 anni credo assolutamente Paolo, con un altro come Francesco Moser, per dire un altro sì. Non se la cavava niente male. No, certo, Paolo Savoldelli tra l'altro è uno anche che conosce le strade che portano la maglia rosa a Milano. Paolo, come hai visto la tappa di ieri? Com'è stata quella discesa di Nibali? Ma allora, partiamo dal presupposto che quella discesa non è una discesa dove si può fare la differenza, perché ci sono dei lunghi rettilinei, ci sono dei tornanti dove bisogna soprattutto avere la gamba da rilanciare dopo il tornante. Sì, come ha detto Vincenzo. Infatti Vincenzo ha fatto il vuoto guadagnando qualche metro in un tornante, rilanciando come i suoi rivali, guadagnando 3 o 4 metri nel tornante successivo, è riuscito poi a fargli perdere la linea. È una discesa solo in un tratto delle gallerie un po' pericolosa, poi molto facile. È stata una tappa molto bella, c'è stato ovviamente il problema di Dumoulin che... Cosa ne pensi di questa storia? Perché si è creato un po' di polemica che poi lo stesso Dumoulin ha spento, aveva avuto problemi fisiologici, si è fermato, il gruppo non l'ha aspettato, alla guerra come alla guerra, no? Ma sì, allora è normale che sia così. Alla fine non è caduto a forata, ha avuto un problema fisico, è comunque una cosa diversa che forare o cadere, no? Sì, certo. Era successa la stessa cosa nel 2005 qua a Basso, io, vabbè, c'era una fuga in atto, Lombardi venne da me, che era suo compagno di squadra, e mi chiese di fermare il gruppo all'inseguimento della fuga, e io lo fermai, ma non eravamo in una fase così importante. Basso rientrò, ma poi dopo andò in crisi comunque sullo Stelvio. Sì. E diciamo che Dumoulin mi ha sorpreso, e credo che comunque rimanga favorito lo stesso a questo Giro d'Italia, perché in una situazione del genere è stato fermo più di un minuto, psicologicamente ha preso una bella legnata, ha fatto tutta la salita da solo, non ha mai preso una scia, è arrivato in cima con 2 minuti e 13, ha perso circa 40 secondi in salita da solo con davanti tutti che attaccavano. Se guardate poi la differenza tra la cima della salita e l'arrivo, praticamente Dumoulin è sceso quasi più forte di Nibali in discesa. Quindi vuol dire che il suo è stato proprio un problema fisico legato probabilmente o a uno spavento, cioè che a me è successo una volta un pericolo che ho preso talmente paura che ho avuto lo stesso problema, oppure qualcosa che ha mangiato che gli ha causato questo problema. Ma il fatto che lui sia andato così forte dimostra che senza questo problema probabilmente non lo avrebbero neanche staccato. Però Paolo, io guarda, dall'inizio del giro continuo a fidarmi, e Stasi lo sa benissimo, perché vabbè, al di là del fatto che ci conosciamo da 20 anni, sa come la penso, io continuo a fidarmi della fantasia dello squalo, Pier. Ma allora Nibali è un corridore maidomo, cioè Nibali è un corridore che attacca sempre anche nei momenti impensabili, no? Non ha avuto il vantaggio della pioggia, del freddo quest'anno al Giro, perché credo che non abbiano preso una goccia d'acqua, e lui si sa che in quelle giornate quando va più forte. È un corridore da 3 settimane, siamo nella 3ª settimana, ed è un corridore da tappe molto lunghe, e purtroppo per lui l'unica vera tappa di montagna lunga è stata quella di ieri, perché poi la tappa di Europa 130, la tappa del Blockhouse 140 e le tappe che arriveranno sono corte. L'unico dubbio che ho è questo: Nibali ha fatto una grandissima prestazione il giorno dopo del riposo. Il giorno di riposo di solito fa molto bene ai corridori stanchi che hanno bisogno di recuperare, e viene pagato un po' di più dai corridori che invece stanno molto bene. Io credo che Vincenzo abbia beneficiato di questa giornata di riposo, mentre Quintana l'abbia pagata un po'. Questa però ovviamente è solo una supposizione che vedremo nelle prossime giornate. Nibali di Giro d'Italia ne ha vinti 2. Ha vinto una Vuelta, ha vinto un Tour, quindi del podio, scusate la parola, non gliene frega nulla. No, vuole vincere. Vuole vincere, non frega niente del podio. Ha poi ha un giro speciale per tante ragioni. Stagi, come la vedi? Beh, guarda, credo che Paolo sia stato chiarissimo. E sono assolutamente d'accordo. Vincenzo è molto forte di testa, ieri ha dimostrato di essere forte anche di gambe, ma non fortissimo. Devo dire che deve trovare un alleato in più, che è dato da Quintana. Non so se Paolo è d'accordo. Quintana in questo momento è assolutamente deludente, ma devo dire che Quintana è deludente da sempre, perché se io devo dire come ha vinto il Giro d'Italia, l'ha vinto con un colpo di teatro, che lui non c'entra nulla, perché lui ha sfruttato la situazione che si è venuta a creare, quindi sia ben chiaro. Però non ci abbiamo negli occhi un'impresa di Quintana, cioè noi siamo ancora qua che parliamo di Marco Pantani, perché era uno che dava emozione e le imprese ce le ha regalate a Iosa. Quintana non ne ha ancora regalata una, e continuiamo, alcuni lo definiscono il miglior scalatore del mondo. Io mi attendo da lui un'azione da campione, da scalatore più forte del mondo, perché però a questo punto veramente che vinca, se deve vincere uno straniero, che vinca Dumoulin, anche se lo sta Strameritando, no, non c'è dubbio, però ieri ha fatto un'azione da fuori classe. È corretto che quello che dici tu, devono attaccarlo, devono metterlo tra due fuochi, se Quintana sta lì ad aspettare. Vincenzo avrà la fantasia, ma a questo punto la fantasia viene ingigantita e valorizzata anche da situazioni che si vengono a creare attorno a Dumoulin. Lo scontro è Dumoulin contro Nibali, la vedo dura, l'uno contro uno. Invece in una situazione dove entra in gioco anche Quintana, entra in gioco Thibaut Pinot, ma soprattutto Quintana, perché è quello che deve, anche perché sennò perde il giro, è chiaramente. Sì, anche perché momento è un altro che per usare le parole di Paolo del podio gliene importa sega, per usarne un'altra peggiore. se noi arrivassimo a questa, con la situazione congelata così alla cronometro di Monza e Milano, Dumoulin vince, vince certo, è chiaro, è chiaro, secondo, chiaro, no, serve qualcosa, serve l'impreso, serve la crisi di, serve la crisi di Dumoulin che non sembra all'orizzonte. Io volevo chiedere ancora una cosa a Paolo Savoldelli prima di salutare entrambi. Paolo, da ex grande corridore, per il lavoro che fai ora di giornalista, parlando con il popolo del ciclismo, ora io mi aspetto poi un discorso che approfondiremo più a lungo. Abbiamo vissuto un mese terribile e tu sai perché, da Scarponi ad Aiden leggiamo delle cifre terribili, e il mio pensiero è questo: i corridori professionisti sanno come bisogna andare in bicicletta sulle strade normali, che è una banalità, sono di tutti come sappiamo, e quindi sono quelli che paradossalmente corrono meno rischi anche se ci vanno tutti i giorni. Io mi aspetto qualcosa dai corridori professionisti indirizzato verso gli amatori, verso chi va in bicicletta per divertimento, per sport, per passione, per svago, per quello che vuoi. Che cosa si può fare per spiegare come si va in bicicletta sulle strade? Ma allora il consiglio che posso dare io è questo. Prima di tutto c'è un problema che attualmente noi ciclisti non possiamo risolvere, che è quello del traffico, che è sempre lo stesso da anni, e le strade che sono sempre le stesse e stanno peggiorando di condizioni. Le manutenzioni non vengono più fatte, sul lato destro della carreggiata dove viaggia il corridore ci sono un sacco di buche perché è il posto dove si creano di più, perché la strada è dove cede, e ovviamente il corridore, il ciclista tende a stare un pochino più in mezzo alla strada. E la cosa che possiamo fare è questa: il ciclista non deve ragionare come un professionista che punta tutto sulla bici più leggera, più performante e più rigida, ma deve ragionare sulla bicicletta più sicura per sé, e soprattutto deve utilizzare dei prodotti che fanno vedere il ciclista. È importantissimo che il ciclista venga visto con delle luci lampeggianti, così anche se non entra nell'ottica dei cicloamatori più appassionati, perché non li vedono nel modo del professionismo. La prima cosa per il ciclista è quello di farsi vedere. La seconda cosa è quella comunque di rispettare le indicazioni stradali, così noi ciclisti su questo dobbiamo fare mea culpa, perché stop senza fermarsi, marciapiedi, semafori con l'arancione, via dicendo, siamo i primi che non rispettiamo queste norme. E poi bisogna cercare di, se si viaggia in gruppi, di rispettare gli automobilisti, che ovviamente, a me è capitato di salire su un camion di mio cognato, non c'è spazio, su una corsia d'oggi non c'è spazio, camion e bici non ci passano, quindi bisogna sempre stare attenti. Un altro consiglio che do ai ciclisti è quello, quando viaggiano sulla strada, che vengono superati, di non attenersi mai troppo sul ciglio del lato destro, perché se l'automobilista o il camionista sbaglia non hai più spazio per riuscire a salvarti, quindi tenersi sempre almeno a mezzo metro dal bordo strada, il camionista o l'automobilista frenerà e ti farà passare. La cosa più importante comunque è farsi vedere con delle luci, con dei caschi, con dei lampeggianti, con delle luci sulle bici, con dell'abbigliamento adatto. Perfetto, grazie Paolo, grazie davvero, grazie per tutto. A voi. Grazie Paolo Savoldelli, come al solito un grande. Grazie per Augusto Stasi, ci sentiamo ovviamente più tardi negli appuntamenti con i notiziari per capire che succede oggi. Adesso ci fermiamo per il traffico, anche se un po' in ritardo, ma penso ne valesse la pena, e poi partiamo con Pardo, con il calcio, con tutto quello che volete. 800 24 0024 è il vostro numero verde. Convocati. Tutti convocati. Vi annuncio già che dopo la borsa andremo fortissimo sul mercato, perché sono un sacco di cose da dire. Anche dopo il GR delle 15 andremo fortissimo sul mercato. Intanto andiamo fortissimo con Pardo, che è arrivato. Ciao Pier. Come va? Molto bene, ma anche con Walter Novellino, che ha salvato i lupi. I lupi. I lupi dell'Avellino. Dell'Avellino, della Erpigna. Casa tua, peraltro. Casa mia. Allora Walter, ultima curva, sei riuscito a salvarti. Adesso sì. Comincia. Rimani lì innanzitutto, che fai? Sì. Resti? Sono in linea. Se, rimani lì ad Avellino? Vediamo. Aggiungiamo un altro vediamo. Va bene, vediamo. Allora vediamo. Intanto vediamo se Di Francesco va alla Roma. Tappardo. No, allora io lo seguo la sera. Lo segui la sera alle 7? Alle 7 e poi anche più tardi. Anche più tardi. Di notte. Cioè, sei un pardofilo, insomma. Esagerato. Te capi. Al gusto dell'orido. No, diciamo che rispetto a ieri sono successe cose, nel senso che Spalletti ha fatto capire con chiarezza che nonostante il pressing, la stima e devo dire anche il feeling reciproco, perché c'è un feeling reciproco con Monchi che ha provato in questi giorni a trattenerlo, però insomma ha fatto una scelta, quindi io da ieri, mentre ieri ti dicevo che ancora non escludevo sorprese, insomma, mi sembra, quindi faccio i complimenti anche a quelli che l'hanno scritto un giorno prima di me sul discorso dell'Inter, però la mia fonte, diciamo, era più romanocentrica non mi risulta che Di Francesco abbia detto ancora niente al Sassuolo, non mi risulta che ci sia stato un contatto vero e formale, quindi per me Di Francesco rimane oggi una delle tre ipotesi con Emery e Paolo Sousa. Chi vedresti meglio, Walter? Tu hai allenato tra l'altro Di Francesco ad Avellino. Chi vedresti meglio, Walter? Guarda, a Piacenza, naturalmente. Eusebi perché ci ha vissuto come calciatore, come mi sembra anche come team manager. Sì, come dirigente. Al di là di questo, Eusebi, secondo il mio punto di vista, secondo me è meglio, perché è italiano, tra l'altro. Conosce bene l'ambiente Roma, è ovvio che quegli altri due sono due, Emery e Sousa sono bravissimi, però credo che io tipo per Di Francesco. Anch'io tipo per Di Francesco, ma anche perché ha avuto questo cursus honorum a Sassuolo, questo corso di laurea a Sassuolo. Bravissimo. E merita è ora della grande squadra. Pardo invece è di un'idea squadra. Diversa. Pardo esatto. È di un'idea diversa. No? Perché vede poi il suo valore, no? Poi vedere il suo valore che è enorme, perché secondo me è quello che assomiglia di più a Zeman. Come poi la fase difensiva ha imparato da Walter Novellino. Però allora è l'allenatore perfetto, ha imparato la sintesi perfetta. Tu però sei di un'altra idea, no, Piero? No, allora vedresti più Emery. Io l'ho detto mille volte, mi piace da Marti e merita la grande squadra perché in questi anni in maniera anche abbastanza sorprendente in certi momenti giocato con una squadra piccola che partiva soprattutto all'inizio con l'obiettivo solo di salvarsi, ma l'ha fatto invece con una qualità di gioco e con un atteggiamento da grande squadra. I famosi 7-0 con l'Inter del primo anno vanno in quella direzione lì, cioè sono chiaramente non è mai bello perdere 7-0, però io mi ricordo quel certo con l'Inter, no? No, però voglio dire, comunque lui ha imposto una mentalità, ha imposto un modo di giocare, quindi proprio per Di Francesco stima totale e assoluta. Detto questo, onestamente, se arriva Emery arriva un grande allenatore. Adesso tutti a dire che Paris Saint-Germain l'ha buttata anche Emery a Barcellona, ha fatto gli errori anche lui, però Emery è lo stesso del 4-0 dell'andata, quindi cioè, ha una dimensione secondo me internazionale. Insomma, se arrivasse lui poi legare con Monchi, secondo me sarebbe una grande scelta. Paolo Sousa, con tutto l'affetto e il rispetto, mi lascia un po' più tiepido perché mi sembra un allenatore che alla fine insomma non ha migliorato più di tanto il livello della Fiorentina rispetto ai tempi di Montella. Aveva avuto un'ottima partenza l'anno scorso con un gioco verticale che Montella non aveva, però poi nell'ultimo anno e mezzo insomma il rendimento della Fiorentina sì, è stato diciamo così che così. Da gennaio non l'ultimo, quello addirittura precedente, si è incrinato questo rapporto con la Fiorentina, che forse è stato tirato anche un po' troppo per le lunghe. Io proverei a prendere Emery. Tu proveresti a prendere Emery, anche se con tutte le incognite Di Francesco è una soluzione perfetta. È ottimale Di Francesco, perché poi sa anche l'inglese, il francese, perché adesso vanno di moda tutti gli allenatori. Scherzo. Ti trovi ormai allenare una squadra una torre di, come Emery, salire sulla Emery, torre di Babele, Emery, no? Emery è un buon allenatore. Sicuramente, ma Eusebi ha fatto una grande gavetta, insomma, ha fatto dei grandi risultati. Non dimentichiamo che ha allenato i ragazzini, tutti i ragazzini, anche quest'anno. Ha valorizzato tantissimi ragazzi, insomma. Io credo che ha le qualità per poter fare bene a Roma, insomma. Senti Walter, e per finire, Spalletti a Milano invece come lo vedi? Bah, punto interrogativo. Perché? Perché secondo me io Luciano lo conosco bene, mi è dispiaciuto questo tira e molla, rimango, non rimango. Milano è una città particolare, una città che vuole subito i risultati, vuole poche chiacchiere, più fatti. E lui li ha fatti, sicuramente, però tutto questo tira e molla, onestamente, con tutto il rispetto che ho per lui, a me non è piaciuto, no? Perché quello non è piaciuto a nessuno, però che sia un grande allenatore, no, e questo, che abbia le spalle larghe abbastanza, credo, per reggere la pressione a Milano. No, io non lo so, perché Milano è molto particolare, Milano è una città che ti trita, questo è lo l'Inter, sappiamo. Poi l'Inter, però ha la fortuna dalla sua parte, tra virgolette fortuna, perché c'è Walter Sabatini, che Walter in questo caso sa tenere bene l'ambiente, insomma, sa valorizzare il suo lavoro, insomma. Però Milano credo che, ecco, la piazza dell'Inter bisogna serve serve un grande uomo d'ordine. Il profilo di Orjali mi sembra perfetto, cioè serve, secondo me, il famoso ministro degli interni, no? L'uomo che va lì, che fa da interfaccia, che impone la disciplina al gruppo, un po' quello che ha fatto quest'anno Peruzzi alla Lazio. Se ne parla poco di Peruzzi, ma Peruzzi ha avuto un grandissimo merito e ha fatto un grande lavoro. Ovviamente poi quando c'è un legame con i tifosi questo aiuta pure, perché ti dà anche un beneficio d'immagine di un certo tipo. Nel caso di Orjali è esattamente la stessa situazione. Orjali sembrava essere sul punto di arrivare, non è ancora arrivato, stato spostato in agenda. In alto mare. Conosce bene l'ambiente, conosce bene tutto, insomma. Ha lavorato con Mourinho. È un grandissimo allenatore, per me ha le spalle larghe, assolutamente, però... Però ha bisogno di un aiuto, ha bisogno di qualcuno che gli tolga, tutta una serie di cose sulle quali poi invece si incarta, ecco. Poi forse anche lui che, tra virgolette, un pochino non riesce a resistere, quindi entra. Comunque la gestione a Roma è stata ottima, cioè alla fine, sinceramente, aspettiamo quest'ultima partita, il quoziente punti in un anno e mezzo alla Roma è stato ottimale. Secondo me anche la gestione di Totti nei primi mesi è stata assolutamente fantastica. Poi improvvisamente, quando sembrava tutto risolto, perché poi comunque alla fine Totti se ne stava complessivamente buono in panchina, e la Roma pensava, come giusto che sia, unicamente al risultato agonistico, è stato riaccesa il cerino, un po' rincartato. Sì, questo è vero, questo è vero. Grazie Walter! Grazie a voi, buona a presto. Giornata! A Pier, presto. Stai lì che dopo la borsa torniamo subito. Tutti convocati. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Tutti convocati. Non so se già ricordato Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Edoardo Lavezzani in redazione, ma se non l'ho fatto lo faccio adesso, se l'ho fatto lo faccio due volte, tanto non fa male a nessuno. Ricordo che siamo ripresi dalle telecamere, ci potete vedere su Facebook e sulla pagina internet di Radio 24, purtroppo non potete vedere Pardo in tutto il suo splendore e neanche il nostro amico Luca Marchetti da Sky, ma lui lo potete vedere su Sky e Pardo su Come c'è Luca Marchetti? L'ho visto in un video, cioè delle occhiaie, ho visto una pubblicità. A parte e non questo ho è solo l'inizio. Che dice Di Marzio a un certo punto con la clip? Si capisce? Prestito o obbligo di riscatto? Ah, quindi perché ho sentito... Ok. Ah, non si capisce, è l'inizio del mercato, ragazzi. E pesa la fine, Ma che occhiali avevi, però? Ma che occhiali? Il problema è che non sono di scena, cioè sono proprio quelle. Hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi? Scusami, Berlino, ma Pardo non lo inquadrate perché è in chiusa? Perché Pardo non lo inquadriamo perché a me con vista sulla tangenziale, giusto? Sì. Bella, bella. Sto sempre aspettando la foto, ma non me l'ha ancora mandata via WhatsApp. Te la mando. Sono in vena canterina. Se dovessi avere sulla tangenziale una tachicardia, cercherò di ricordare che nonostante tutto c'è la nostra stupida, improbabile felicità. Bene, passiamo al mercato. No, andiamo, vatti a cantare. Che passi, la nostra che niente ha fatto fotogenica felicità, sciocca, Luca, ridicola, cosa vuoi cantare? Cosa vuoi cantare questo tu, Luca? Questo sottofondo musicale mi infastidisce un po'. È l'Exodan dei cani, canzone straordinaria. Allora, Luca, ovviamente partiamo dalle canzoni di Pardo. Tu vuoi cantare? No, nulla. No, cosa devo cantare? No, neanche, no. Neanche un coro della Ternana, niente. No, lasciamo perdere. Lasciamo. Meglio che i nostri radioascoltatori, anzi, i vostri radioascoltatori, mantengano. Anche perché verrebbe querelato dai Frick Brothers, dai Frick Brothers. Senti. Panze allegre. Allora, a me fanno impazzire gli ascoltatori ben informati, cioè no, i soliti ben informati. Ce n'è uno che mi scrive un WhatsApp: ragazzi, ve lo dico io, entro martedì l'Inter annuncerà Conte come un nuovo allenatore, se Allegri andrà via arriverà Spalletti alla Juve, punto, fidatevi. Luca? Io non mi fiderei molto. Anche se non sono così sicuro che Spalletti sia al 100% il prossimo allenatore dell'Inter, ritengo che sia assolutamente in vantaggio, ma non credo che ci possa essere questo domino così grande. Posto che magari una domandina su Allegri ce la potremmo fare, nel senso, adesso lasciamogli preparare la finale, ma se vince appunto, tutto quello che c'è da vincere... Bravo, scusa, abbiamo fatto mille volte, ma che è sempre di attualità e sarà di attualità almeno fino alla notte della finale di Champions. Sì, però fino a quella notte lì lasciamolo in pace. No, oppure sfruculiamo ma certo, sono cattivo come il Pepe. Posto che il Pepe è buonissimo, soprattutto sulla cacio e pepe. No, comunque, allora prova a fare il serio che non mi riesce. Facciamo finta, chiudiamo gli occhi. Sì. La Juventus, facciamo gli scongiuri. Mani sotto il tavolo sul ferro dove volete. Allegri ha vinto la Coppa dei Campioni e saluta tutti chi va alla Juve. Perché saluta tutti? Io non sono convinto che saluta tutti. Vabbè, no, nemmeno io. Però facciamo finta che. Perché la domanda è quella. Non lo so, a quel punto è quella. Sì, a quel punto è quella, ma io credo che una società come la Juve non si lasci trovare eventualmente impreparata da una situazione del genere. Cioè, io penserei a un top allenatore. Non so, Guardiola, non lo so. Te ne dico uno a caso, che magari oggi, quest'anno non ha fatto benissimo, non so neanche contrattualmente come ha messo, se ha litigato con Mansur oppure meno. Cioè, penserei a un profilo di quel genere lì, una volta che tu entri nell'empireo dei grandissimi, perché una volta che hai fatto il triplete è chiaro che devi continuare su quella strada lì. No, la Juve non si farà certamente trovare impreparata, ma abbiamo sentito anche le parole di Marotta di domenica, no? Che lasciano comunque spazio all'immaginazione, quantomeno. Sì, fino a un certo punto, nel senso che secondo me eventualmente sarebbe Allegri che dice: ho finito il mio lavoro qua. Se la Juve potesse far firmare un decennale oggi ad Allegri, glielo fa firmare, posto che magari 6 mesi fa non gliel'avrebbe fatto fare. Su questo è indubbio, però rimane questo punto interrogativo. Magari ha ragione il nostro ascoltatore, è tutta una poi, messa detto in questo, scena. Allegri si lascia per lasciare un buon ricordo, lascia perché ha qualcos'altro. Lascia perché lascerebbe perché hai compiuto il capolavoro e probabilmente dopo aver compiuto il capolavoro ogni cosa che può venire allora ti rigiro un'altra di domanda diversa. Di quelli che hanno vinto il triplete, chi se n'è andato dopo averlo vinto? Tu lo sai benissimo. Mourinho. se n'è andato Mourinho, se n'è andato Heinkens, che l'avevano già detto. Vabbè, Heinkens l'aveva detto a gennaio. Gliel'avevano detto perché gliel'avevano sarebbe arrivato Guardiola, no? Esatto, gliel'avevano detto a gennaio. Gli altri sono rimasti. Sì, recenti, con alterni risultati. Sì, con poi c'è chi ha continuato risultati. A far bene, c'è chi invece magari ha dovuto lasciare un po' il passo. Bisognerà capire anche, secondo me, la chiacchierata decisiva sarà quella, eventualmente quando ci dovesse essere, fra la Juve e Allegri, in cui si diranno va bene ragazzi, abbiamo vinto tutto, è chiaro che il prossimo anno non possiamo rivincere tutto, non possiamo essere così presuntuosi da pensare di poter certamente vincere tutto, organizziamoci per magari rifarlo entro X anni. E allora partecipa a un progetto a lungo termine. Di ricostruzione, certo, alla media di mantenimento, di consolidamento, chiamalo come vuoi. Di consolidamento, sì. Però ogni cosa che fai non può che essere peggio rispetto a quella dell'anno prima. Vabbè, certo. Allora, facciamo così, ci fermiamo un attimo per il traffico e poi andiamo dritti invece sul mercato giocatori e sul sacco di Roma che mi sembra sia in atto. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Tutti convocati. Pierluigi Pardo, Nainggolan farebbe più comodo all'Inter o al Milano oppure senza differenze essendo un gran giocatore? Ma io penso che la Roma venderà un giocatore. Uno dei top, però non penso che ci sarà il sacco di Roma. Io penso che, essendoci probabilmente l'allenatore in uscita dalla Roma ed essendoci comunque, nonostante tutto, nonostante un probabile secondo posto, comunque una serie di introiti che arriveranno, la necessità ancora di rientrare di qualcosa e la necessità di contenere i costi, la Roma farà una cessione. Sì, forse anche due, Pierre. Ballano i nomi di Nainggolan, Strootman, che potrebbero seguire Spalletti eventualmente all'Inter, così come di Emerson Palmieri, così come di Rudiger Manolas. Secondo me è un vantaggio per la Roma questa situazione, proprio per quello che diceva Pierluigi, ovvero che c'è la necessità derivata da accordi con la UEFA per il settore finanziario di dover fare una cifra tot di plusvalenze. Il fatto che ci siano tante squadre interessate ai giocatori della Roma perché sono bravi, perché hanno fatto un grande campionato, è un assoluto vantaggio per la Roma, perché dal momento in cui qualcuno devi vendere, meglio che ci sia concorrenza e quindi si tenga alto o addirittura aumenti il prezzo di vendita, piuttosto che invece devi essere costretto a offrirlo il tuo giocatore. È un'ulteriore medaglia per Spalletti, nel senso che Spalletti lascerà, come sembra ormai molto probabile, lascerà dopo aver comunque portato la squadra a fiorire dal punto di vista proprio della qualità tecnica e delle individualità. Quindi oggi c'è l'imbarazzo della scelta, però insomma io non credo che ci sarà mobilitazione e penso anche che Monchi sia veramente l'uomo giusto, l'uomo giusto per impostare un percorso di grande qualità. Il vero problema è, come sempre, come partirà, che tipo di approccio ci sarà, perché c'è chi è partito molto bene, molto forte, come Rudy Garcia, che sappiamo che cominciò benissimo dopo l'estate più complicata dal punto di vista ambientale nella storia recente della Roma, dopo la finale persa contro la Lazio, e però partì subito fortissimo. Se non parti subito forte, a Roma rischi perché arriva tutta una serie di oscillazioni di umore. Oggi sono proprio in vera canterina, gli sbalzi d'umore, come canterebbe, come canta il maestro Battiato, ecco, gli sbalzi d'umore a Roma sono molto forti, quindi se parti bene hai un grande vantaggio, un volano di energie positive, se non parti bene diventa un problema. Sì, e se parti avendo venduto un pezzo da 90 già comunque c'è malumore. Però dipende anche dalle aspettative che dà la società o l'ambiente a questo. Io mi ricordo Luis Enrique, che non partì certo a razzo come Garcia, che venne accettato come processo transitorio in maniera estremamente matura dal pubblico romanista. Però qui vieni da una serie di secondi posti, terzi posti, piazzamenti, insomma non è facile, secondo me. No, ricordo però anche se il messaggio del mercato e il messaggio della società è quello di il prossimo anno, per tutta una serie di motivi, siamo competitivi sì, ma non per le prime due posizioni, e tutto va di conseguenza. Bisogna capire anche se questo messaggio certo, poi è vero e basta. Sì, certo, e soprattutto certo. Quanto poi alla fine è accettabile, perché poi il tifoso è certo. Tifoso, è chiaro che certo, non è. Certo. No, ma poi accettabile, no? Io è un discorso che è un macro discorso che continua ad allargare. Io spero che ci sia una sfidante vera per la Juventus l'anno prossimo, perché sennò qui rischiamo. Beh, De Laurentiis alla cena ha tirato. Ha levato insomma il dubbio, il Napoli il prossimo anno vorrà vincere il campionato, punta sì, a vincere no, il campionato. Continua a dirlo, però per vincere il campionato a Napoli che serve? Tanto per essere chiaro. Napoli è messo bene, sì, ma, sì, anche secondo me. Ok, ma da lì a vincere il campionato che serve? Cioè dobbiamo capire, è questo, perché servono a profondità 6-7 punti in più. Sì, che però serve, non sono serve non sono un piano sul mercato. B in certe situazioni. Serve una basta un piano B in certe no, situazioni. Serve, secondo me qualche nuovo acquisto, anche perché la Juve continuerà a fare cose, continuerà a irrobustirsi, ma serve secondo me soprattutto da parte di un allenatore straordinario come Sarri una capacità nel trovare delle alternative, perché su 38 partite di un campionato non trovi 38 situazioni in cui puoi imporre il tuo gioco, troverai anche delle situazioni dove per sfiga, per momento di forma non ottimale, per forza dell'avversario, per episodi puoi andare in difficoltà. Allora io trovo che l'unico limite del sarrismo sia questo, sì. che è un canovaccio di gioco meraviglioso, ma che in certi momenti quando questo canovaccio non funziona rischi di incartarti un po'. Però ripeto e rifaccio la domanda a 3-4 acquisti. A Luca 3-4 acquisti. Eh? 3-4 acquisti. Ok, 3-4 acquisti, però non quale tipo di acquisti? Perché la forbice si va allungando, la Juventus si infilerà in tasca un altro sacco di soldi, il gap, la forbice si allarga e già si parla di Di Maria, come sai perfettamente Luca, Mbappé, Iniesta, Douglas Costa. Credo che di questi il più concreto sia Douglas Costa, gli altri sono degli accostamenti, sì, giocatori sicuramente estremamente forti, alcuni troppo costosi, alcuni un po' più là con l'età, di questi qua, di questi nomi che sono usciti in questi giorni, credo perlomeno a nostra conoscenza il più concreto possa essere Douglas Costa. Sì, ma poi altri arriveranno, perché la Juventus tenderà ad essere sempre più. E allora a quel punto Maradona non gioca più. Chi prendi per al di là del piano B, dei 7 punti, del più di così la panchina non si può allungare. Cioè, serve il grande nome, serve il grande leader. Secondo me serve innanzitutto un portiere, perché con tutto il bene che possiamo volere a Pepe Reina non ha fatto una grande stagione. E il portiere lo stanno comunque cercando. Il portiere lo stanno comunque cercando. È la prima cosa. Ma poi serve un fuoriclasse? Beh, sicuramente aiuterebbe, su questo non c'è dubbio. Io credo che Napoli stia muovendo dei passi piano piano per cercare di avvicinarsi. Non so se De Laurentiis, in qualità di presidente, non... come imprenditore riuscirà ad avere lo stesso impatto economico della Juventus, poi se no faccio la fine di Sarri che parla di fatturati comunque incidono naturalmente nella capacità di spesa. Mi sembra che il Napoli però con questi rinnovi di contratto abbia dato un segnale, no? Ha sforato ed è arrivato oltre i 4 milioni di euro per rimanere in scia della Juventus. La vera domanda che ci dovremo fare, a cui la risposta sarà data dal mercato, è: questi soldi che sono stati dati a Mertens e a Insigne, giustamente, potranno essere a disposizione anche dell'eventuale acquisto top di quest'estate? Cioè il Napoli potrà prendere un giocatore da 4 milioni di euro netti a stagione? Quindi significa che prendi un giocatore top, o fra i top. E poi c'è la vera incognita comunque della posizione in classifica. Lo aspettiamo ancora certo. 90 minuti, ma sappiamo certo. che la storia recente del calcio italiano è una storia di squadre che vanno al preliminare e prima di passare al preliminare non investono in ecco caso ma in quel caso come aveva fatto De Laurentiis nelle ultime stagioni fu un errore perché tu devi farlo devi farlo a prescindere, devi ovviamente scommettere su ed è un catch 22, un circolo vizioso totalmente. È chiaro che se non fa gli investimenti, cioè per dirti, i tifosi della Lazio rimproverano allo Tito che in quell'estate però per onestà va ricordato riuscì a resistere alle offerte importanti che c'erano per Felipe Anderson di 40-45 certo. milioni, però non fece l'acquisto che i tifosi, cioè non rafforzò la squadra. E così facendo la Juve non la becchi più. Un'ultima domanda, Luca Marchetti. Sacco di Roma anche sul fronte Lazio, Biglia, Milan, Keita, tra Juventus e Milan. Sì, ma sono due giocatori che hanno una situazione contrattuale particolare, sono a scadenza contratto giugno 2018. Io credo che Biglia sia molto vicino al Milan e che possa essere uno dei primi acquisti di questa nuova gestione rossonera. Su Keita il fatto che ci sia concorrenza chiaramente sposta un po' più là la possibile conclusione dell'affare. Poi bisognerà capire anche i rapporti di forza come sono, perché il Milan potrebbe avere un asse con la Lazio, ma allo stesso tempo bisognerà capire anche qual è l'intenzione del giocatore. Ah, certo. Perché bisognerà parlare anche con lui prima o poi. Perché guardate che lo dito con tutti i difetti, però Luca lo sa benissimo, è una bottega cara ed è una bottega difficile, cioè non è uno che regolarmente smobilita, non è uno che fa l'acquisto da 30 milioni, perché la storia ci dice questo, ma è uno che i suoi gioielli comunque li ha difesi fino all'ultimo e poi alla fine magari per sfinimento ha ceduto Candreva l'anno scorso facendoselo comunque pagare il giusto, quindi non lo so, certo la situazione contrattuale incide su tutte e due, il fatto che non sia arrivata una parola fine in termini positivi alle trattative di rinnovo lascia pensare che alla fine ci sarà l'addio. Sono due giocatori, uno di prospettiva, certo. l'altro di realtà è anche con una grande dote di leadership, cosa che al Milan fosse sul mercato questa, la leadership andrebbe acquistata prima di ogni altra cosa. Io ringrazio Luca Marchetti da Sky. Grazie a voi. E anche Pierluigi Pardo, che lasciamo andare a preparare l'attività che sarà assolutamente molta Inter oggi. A dopo, torniamo sul mercato, ma soprattutto in chiave Milan. Aspettiamo Luca Antonini che ci aprirà un po' le porte del Milan. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. State ascoltando un programma offerto da Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Te ne vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Convocati. Abbiamo Luca Antonini in linea, che saluto già. Ciao Luca. Ciao a tutti. Ciao a te. Mario da Verona è un ascoltatore, prima di oggi lo salutiamo con affetto. Ciao Mario. Grazie e buona giornata a tutti. Buona giornata. Un'informazione, allora, qui a Verona ci si interroga, non so se poi c'è ancora Pardo in studio. Pardo, no, ma le rispondo io per Pardo. Ah, ok. No, qui a Verona so ci tutto. Si interroga ovviamente sulla possibilità di arrivo a Verona, ovviamente, di Cassano. E allora, visto che Pardo è molto amico, ma gliel'abbiamo già chiesto, abbiamo provato a sfrugugliarlo sull'argomento. Può essere, è un'ipotesi. Vediamo, come diceva prima Novellino a proposito della permanenza. Della permanenza ad Avellino, secondo me potrebbe anche arrivare senza grossi problemi. Sarebbe contento lei? Contento, perché ovviamente è indiscusso la forza, cioè il talento del giocatore. Ovviamente il problema principale di Cassano è la forma fisica e la probabilità nel modulo del Verona, ovviamente, che negli ultimi anni almeno ha giocato con un modulo diverso da quello che sì, no, ma al di là del problema di Cassano è un po' diverso, no Luca? Antonio è un amico, però ogni tanto facciamo che Cristiano con la testa di Beckham o di Cristiano Ronaldo, e non parlo di pettinatura, sarebbe diventato il più forte giocatore del mondo. Ha le qualità incredibili, è un giocatore unico nel suo genere secondo me, però ha avuto purtroppo dei momenti in cui non ha ragionato troppo, mettiamola così, quando doveva prendere delle decisioni o fare scelte di un certo tipo. Sì, non ha ragionato troppo, è un pallido eufemismo che accettiamo, diciamo che si è fatto guidare da altre cose. Vabbè, comunque, come vedi il Milan che sta nascendo? Perché le voci sono tante, le esigenze sono tante per rendere questa squadra competitiva. Secondo te da dove bisogna partire? Musacchio, Kessié, Riccardo, Rodriguez sembrano fatti, si aspetta il bollo del notaio, ma serve dell'altro, credo. Sicuramente serve dell'altro, questo è poco ma sicuro, perché se il Milan deve tornare a certi livelli o comunque poter lottare per la vittoria dello scudetto o comunque per andare in Champions League, ha bisogno di altri giocatori, e secondo me quello su cui ora come ora bisogna lavorare più di tutti è la permanenza di Donnarumma. Sì, perché, che è più che un giocatore, è simbolo di qualcosa, insomma, no? È il simbolo di una nuovo, di una rinascita, di una nuova epoca, e hai la fortuna di avere un ragazzo di 18 anni con delle qualità impressionanti, e quindi devi fare tutto il possibile affinché questo possa rimanere, perché comunque il ruolo del portiere è un ruolo fondamentale, perché poi alla fine vedi la Juve con Gigi, il portiere diventa fondamentale per, anche solo per una o due occasioni a gara ti salvano la partita e ti fanno portare a casa. No, ma al di là del valore tecnico è qualcosa di simbolico a questo punto, cioè arriva una nuova proprietà, devi confermare quello che è il giocatore più rappresentativo in questo momento. È quasi un discorso politico, tra virgolette. Sì, questo sicuramente, perché Gigio è il futuro, ha la possibilità di essere la bandiera del Milan per decenni, e quindi il Milan la società deve portare su affinché questo possa rimanere. Poi bisogna avere a che fare con Mino Raiola, che non è un facile da superare, però credo che poi alla fine debba prevalere più che altro la voglia del ragazzo, e deve decidersi anche. No, ma poi Luca, si può fare anche un ragionamento alla De Laurentiis, cioè firmi, ma Raiola lo sa benissimo, perché poi guadagna molto sul trasferimento dei giocatori, anche questo lo sappiamo benissimo, sullo spostarli da una squadra all'altra. Si può fare un ragionamento di questo tipo: rimani qui, sei leader indiscusso, ti valorizziamo un altro paio di stagioni, tanto è alle prese con la maturità da ragioniere, quindi sappiamo quanti anni ha, classe 90, classe 99, e poi avrai le porte aperte per farti ricoprire d'oro dagli inglesi, dagli spagnoli, chi lo sa. Sì, forse sì, potrebbe essere una possibilità, però secondo me per avere uno settore importante devi comunque pensare in grande, pensare a lungo termine, come la Juventus ha già preso i giovani migliori del panorama calcistico italiano, vero. E perché è già pronta per ripartire con una nuova. Si sta preparando futuro, cioè, ma sì. Sta facendo già il ricambio generazionale, continuando a vincere alle porte dell'obiettivo più grande. Quindi questa è la vera forza della Juventus, ed è per questo che dico che, insomma, è qualcosa di al momento inarrivabile, cioè è inimmaginabile pensare come possa perdere i prossimi scudetti, e questo non è certo un bene per il calcio italiano. No. Luca, si leggono altri obiettivi di mercato per il Milan: Keita, Biglia, Paredes, Barella, Luis Gustavo, Morata, sogni come sono Belotti o Nainggolan. C'è qualcuno che potrebbe cambiare la squadra? Chi vede in grado di cambiare la squadra? Di cosa ha bisogno il Milan? Facciamola corta. Di cosa ha bisogno il Milan per essere la Champions League? Ha bisogno sicuramente di un attaccante che faccia tanti, tanti gol. Morata può andare bene? Morata potrebbe essere un giocatore che fa il caso del Milan, perché non è una vera e propria prima punta, però è uno di quei giocatori che è giovane, con un gran futuro davanti, e che ha il gol nel sangue. E un altro punto fondamentale per il Milan è il centrocampo. Sì. E se ci fosse una possibilità volontà veramente di prendere Nainggolan, io non aspetterei un millesimo di secondo, pagherei quello che c'è da pagare e me lo porterei a casa, perché comunque è giovane, ha già conosce tutto la campionato italiana, è un giocatore internazionale che è fortissimo, fa gol, forte fisicamente, può ricoprire più ruoli in un ipotetico centrocampo a due o a tre, può svolgere anche il ruolo di trequartista se Milan dovesse decidere di fare 4-2-3-1, quindi è un giocatore che può giocare in più ruoli e che ti dà quella qualità che ora come ora il Milan manca. Ma poi soprattutto quella personalità, quella garra, quella cattiveria, quella leadership che al Milan manca in maniera abbastanza clamorosa, io direi, no? Sì, non c'è un giocatore con quella personalità, quella cattiveria, manca un po' di cattiveria, comunque manca in quelle partite in cui il Milan quest'anno ha faticato, servono giocatori come Nainggolan. Ma è una spiegazione sulla differenza così evidente di rendimento tra andata e ritorno? Sinceramente no, perché anche durante il ritorno il Milan ogni tanto ha dimostrato di farcela, o comunque di poter venire fuori da un momento negativo. Poi succedeva che la partita successiva cadeva magari con una semplicità incredibile. Uh-huh. E questa è un po'... l'unica spiegazione che posso darmi è che comunque tanti ragazzi hanno dato veramente tanto, o comunque in più di quello che erano le loro qualità, le loro potenzialità, e sono arrivati a un punto in cui non erano più. Vedi, secondo me, Suso ha fatto l'inizio del campionato fino al gennaio stragrande, e poi è andato un po' incalando, poi alla fine si è un po' ripreso magari dopo l'infortunio, sì. Però comunque sia non a quel livello, non a quel livello. No, non a quel livello. No. Luca, ti faccio sentire un Galliani di ieri. Ma io sto bene, mi sto occupando di altre cose, la mia emotività è la stessa, devo dire che quando segna il Milan esulto esattamente come esultavo prima, quindi, ma io l'ho già provato con l'Armani, dove sono stato nel Borio, sono un ultra tifoso del Milan, continuo a vivere emotivamente queste partite così, e quindi va bene, quindi sono contento che siamo ritornati in Europa. Ha uno strano effetto Galliani in pensione. Ma sì, fa un grande effetto, purtroppo, e mi dispiace tanto, perché tenere fuori dal mondo calcistico una persona, un uomo di spessore e di grande capacità quale Galliani, per il calcio è una perdita. È una perdita, e io spero che in un futuro più breve possa tornare in qualsiasi situazione per poter essere protagonista del calcio italiano, perché comunque è veramente una perdita incredibile quello che ha fatto insieme al dottor Berlusconi in questi anni, cioè da fargli solo però sai, poi si cambia, poi fatalmente si cambia, sono nuova proprietà, è normale che i vertici vengano sostituiti, succede in ogni grande azienda. Un'ultima cosa che ti chiedo, Luca, è questa: De Sciglio, che giocatore che a me piace tantissimo, giocatore il cui valore si è visto di recente solo lontano dal Milan, cioè con la maglia della nazionale. De Sciglio, che è stato fucilato praticamente dal popolo milanista, i motivi non sono chiarissimi, andrà via. Tu so che sei molto legato a lui, destinazione probabile Juventus, e sono contento perché è un ragazzo che evidentemente ha subito la pressione di San Siro, ha subito il fatto di essere giubilato dal suo stesso pubblico, ed è un giocatore di grande valore. Se fosse così, se finisse così questa telenovela, la Juve farebbe un gran colpo, perché Mattia nel corso comunque di questi anni, lasciato stare forse l'ultimo anno e mezzo in cui comunque è stato fastidiato da infortuni, continuamente non ha avuto quella continuità che aveva magari nel primo anno e mezzo di Milan, ha sicuramente subito la pressione mediatica e ambientale di San Siro sicuramente, e comunque poi quella maglia a San Siro pesa tanto. Quella fascia di capitano, nel momento in cui Abate è dovuto star fuori per quel problema all'occhio, Montolivo non c'era, si è caricato forse di un peso che ancora non è in grado di tenere, e quindi secondo me tutte queste cose hanno contribuito a far sì che le sue partite, le sue prestazioni non fossero all'altezza di quelle che sono le sue qualità, perché è un ragazzo del 92, quindi è veramente giovane, ha già fatto parecchie apparizioni nazionali da titolare, ha partecipato all'Europeo molto bene, peraltro molto ma molto bene, si è forse stato uno dei migliori dell'Europeo, e quindi secondo me la sua testa ha bisogno di cambiare aria, e certo. Lo posso capire, perché non è facile riconquistare San Siro. Grazie Luca Antonini. A presto. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio a Luca Antonini. C'è in linea Max Menetti, coach di Reggio Emilia Basket, di cui parleremo tra poco. Playoff, arrivati alle semifinali. Però Max, sei d'accordo, precedenza alle signore, Rita da Latina? Assolutamente sì. Buongiorno Rita. Senta, buongiorno. E volevo dire, per Bisciglia sono d'accordo con lei. Sì. Però lei mi dovrebbe dare una risposta, mi perdoni. Come io ho grossa, così mi piacete tanto, tra lei e Pardo. Grazie. Però la domanda è questa. Guardando tutto il campionato, andando un po' indietro, c'è stata mai una partita o un gioco che questo campionato le è piaciuto qualche volta? In che senso? Il Milan? Campionato di quest'anno. Del Milan? Ha visto un bel gioco, per davvero, al di là delle tifoserie, al di là che io sono della Roma, quello è. No, ma ha visto un bel gioco. In generale, lei dice? Sì. Beh, Napoli sì, era Roma pure a tratti, quando ha avuto la squadra completa in certi momenti, la Juventus stessa, Rita. Parliamo di filosofia e di estetica. Un bel gioco sì, l'ho visto e l'ho visto in queste squadre, soprattutto da quando Allegri, di cui Max Menetti è un grande tifoso, si è inventato questa formula, che non è vero che non ha precedenti, perché la formula mille stelle ricorda, l'ho detto molte volte, l'albero di Natale di Ancelotti. È chiaro che devi chiedere tanto sacrificio alle tue stelle, le tue stelle devono sapertelo dare, o tu devi essere bravo a chiedere così tanto sacrificio alle tue stelle. Max, mi sbaglio? No, beh, poi il Max quello vero, credo che in questo abbia dimostrato in questi 3 anni di essere fantastico. Quello vero. Sì, no, nel senso che l'hai chiesto a me, ma quello è lui quello vero. Però insomma credo che gli inserimenti di Alves e Higuaín quest'anno, proprio sotto l'aspetto del sacrificio, soprattutto di Higuaín e di Alves a livello tecnico nella seconda parte della stagione, siamo un altro ennesimo capolavoro del Max Vero. Sì, nel Max Vero, ma Max Vero è anche Max Menetti, cui chiedo l'ultima sul calcio, andiamo sul basket. Allora, da allenatore, fossi Allegri, chiudi gli occhi e tocca a ferro, vinci la Champions League a Cardiff, fai il triplete, più di così non si può vincere, che fai? Ma io sinceramente non sono per abbiamo fatto tutto, non puoi fare di più, ecco. Da quello che si percepisce, credo che ci sia grande empatia con la società. Poi adesso i tempi moderni sono che per più di 2 anni, 3 anni, e poi soprattutto Mourinho in questo è stato quello che ha condotto un po' l'idea di prendere, fare 2 anni, vincere tutto e poi scappare. E dall'altra parte c'era Ferguson, che è stato lì 26 anni. Io non vedo perché Allegri potrebbe aprire un ciclo da trapattoni alla Juve, ecco, per vincere tante volte le stesse cose. A me piacerebbe questo. Senti, passiamo ai dolori. 80-79, questo è il punteggio dell'ultima gara contro Avellino, che ha chiuso la serie a tuo sfavore. Potevate riaprirla e forse cambiare lo scenario di questa serie, però Reggio Emilia, che non lo dico perché sei qui tu, ma l'ho detto mille volte, l'anno scorso compreso, in cui siete arrivati in finale, è una delle mie squadre favorite, una delle mie squadre modello per molte ragioni, non solo legate al patriottismo, al fatto che ha molti italiani, ma al fatto che ha una filosofia. E quest'anno le cose hanno funzionato un po' meno bene fin dall'inizio. Sì, è la verità. Credo che noi è un po' tutto l'anno, parliamo dell'ultima partita e parliamo di qualcosa che avrebbe potuto girare la serie, e i playoff era qualcosa che avrebbero potuto girare la stagione. il rientro degli infortunati avrebbero potuto girare un andamento. Insomma, la verità è che è stata una stagione discreta, a dire la verità, perché insomma sesto posto, semifinali di Coppa Italia e comunque playoff per Reggio Emilia, tutto sommato è vero che veniva anche alle due finali, ma è vero anche che cinque anni prima noi eravamo in A2, quindi la stagione nei risultati è stato al di sotto anche del nostro obiettivo minimo, che era quello di raggiungere la semifinale. Parallelamente però, hai detto tu, ecco, davamo l'idea di avere delle grandi potenzialità e in più credo che tutti percepissero che non ci fosse quello spirito di cui noi eravamo diventati un po' custodi, un po' sulla bocca di tutti, proprio per questo spirito, ecco. Quindi questo è venuto a mancare, oppure l'abbiamo fatto sempre vedere un po' a sprazzi, ecco. E quindi per questo, più che sull'uscita con Avellino, che è una squadra forte e che ci sarebbe stata l'uscita giusta, tra l'altro, è stato più che altro perché il nostro andamento, proprio nello spirito, in quello che abbiamo andato a vedere durante l'anno, non è stato quello che avevamo fatto vedere negli ultimi anni, ecco, essere sinceri. Vedi una sfidante a Milano, onestamente? Ma sì, devo dire la verità, Avellino mi ha impressionato molto, perché hanno talento e soprattutto, al di là del talento, hanno veramente tantissima esperienza. In più è stato spaventoso quello che ha combinato Raglan, combinato tra virgolette, perché un giocatore che perde il fratello all'inizio della serie, fa quattro volontari continentali, chiude gara 3 con 6 su 7 da tre punti da solo, arrivando, scendendo dall'aereo la mattina della partita, vuol dire essere veramente un grande campione. E quindi quando entri dentro quello status, dentro un playoff, dopo entri veramente dentro quasi un'onnipotenza, ecco. E quindi Avellino ha fatto veramente, è pronta. E dall'altra parte Venezia invece, che ha avuto per tutta la stagione una per così dire una crescita di mentalità veramente pazzesca. Trento, certo, io non la sottovaluterei mai, perché a forza di dire a Reggio Emilia tutti erano disperati perché noi avevamo preso Avellino e dovevamo prendere Trento nei playoff, quindi puoi tu immaginare che, partendo da questo, non vorrei che facesse degli altri scherzi a qualcun altro, ecco. Grazie Max, ci sentiamo presto. Ciao. Grazie mille. Ciao Max Menetti, allenatore di Reggio Emilia Basket, playoff con le semifinali che cominciano domani proprio con Milano-Trento. Grazie a Giorgio Di Ruga, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, ciao. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti.